Il diario di Q. Viterbo, 14 gennaio 1547. Sul concilio. L'imperatore non ha perso tempo. Il vecchio leone ha ancora gli artigli. Ha fatto scendere lanzi che necchi nel Trentino e con loro la peste che li accompagna da sempre. Il messaggio è chiaro. Dopo la disfatta del suo paladino al concilio, i cardinali stiano attenti. Quell'inetto del Papa si era messo a lanciare segnali d'intesa ai francesi. Ma Carlo è sempre Carlo, reggitore del Sacro Romano Impero, che nessuno provi a tramargli alle spalle. Il concilio è stato sospeso, lo trasferiranno a Bologna, lontano dal fiato pestilenziale dei lanzi, così dicono. Su Carafa. Carafa deve stare attento. L'imperatore non è uomo da farsi mettere i piedi in testa, lo ha appena dimostrato. Forse è per questo che il vecchio tarda a scagliare l'Inquisizione sulle tracce del beneficio di Cristo. Di chi lo possiede e di chi lo ha redatto. Reginald Pole è ancora in auge nel cuore di molti, piace al Papa e ancor più all'imperatore. O forse è soltanto un temporeggiare studiato. Forse il vecchio pensa che i tempi non siano ancora maturi, molti pesci devono ancora cadere nella rete, bisogna che il libro circoli, ma scherza col fuoco, perché insieme al libro si diffondono le idee. Della nuova diffusione del libro. Chi può avere interesse a rischiare tanto da stampare e vendere il beneficio di Cristo? Se pure gli spirituali non c'entrano, chi è responsabile? Un mercante, un uomo o più uomini con il senso degli affari. Ma perché? Si può lucrare anche su altre stampe. Non c'è bisogno di rischiare la prigione o la vita per un grossolano compendio di calvinismo. C'è qualcosa che ancora non afferro. Devo seguire l'istinto.